18:46, buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Profondo Rosa. Buonasera. Trasmissione sui movimenti LGBTQI in onda ogni giovedì intorno alle 18:30. Dai. È un caso stasera. Stasera siamo un po', ci siamo un po' allungati. E così vi ricordo come al solito un po' di siti e di indirizzi: www.ondarossa.info, il sito della radio, profondorosa@ondarossa.info, che è il nostro indirizzo mail, e profondorosa.noblogs.org, che è l'indirizzo del nostro blog. Non so quanto aggiornato, forse è più aggiornato il sito della radio in questo periodo. E poi il telefono 06 49 17 50 se volete chiamarci adesso. Esatto. Io ripartirei così, salutando chi arriva e chi se ne va, in particolare chi arriva da, insomma, luoghi lontani, e bentornato. E dicono che porta male, fa gli auguri il giorno prima, comunque insomma, però almeno un saluto lo facciamo. E niente auguri, ciao Fagiolino. E anche un saluto a chi parte, insomma, se ha... tu sai perché, tu sai com'è, tu sai tutto, ciao. Ciao, ciao a voi. Che fai, parli da sola? Non ti sei ancora detto niente, ciao. No, ciao. E comunque, insomma, come avete sentito, dovremmo finalmente riuscire a fare una chiacchiera che la scorsa settimana, insomma, è andata un po' maluccio, visto che, insomma, il collegamento telefonico non è stato dei migliori. Stasera ci riproviamo, continuando, insomma, questa serie, questo ciclo di trasmissioni che abbiamo inaugurato da un mese a questa parte. La tematica è quella di cui abbiamo parlato, insomma, nelle ultime trasmissioni, quindi lavori affetti, e in particolare con il nostro compagno telefonico di quest'oggi. Volevamo un po' fare il punto della situazione di un qualcosa che, insomma, che si muove da un annetto circa a questa parte, forse un pochino di meno, nella penisola italica, insomma, un tentativo di ragionamento a largo raggio all'interno, insomma, delle tematiche queer e LGBTQI. L'altra volta abbiamo parlato un pochino anche della questione Atlantide, che, insomma, a Bologna è un luogo abbastanza importante, che si trova nuovamente sotto possibilità di sgombero. Non so se vogliamo partire magari da qualche aggiornamento su questa questione, e poi entriamo magari un po' più nel vivo della trasmissione. Sì, direi che non ci sono grossi aggiornamenti su questo punto, se non che, diciamo, oggi è stata una giornata particolare, per la quale ad esempio il circolo Cassero LGBT di Bologna è stato chiuso dal questore per 10 giorni per una serie di un fatto avvenuto la settimana scorsa, di un'aggressione all'interno. E voglio dire, colgo l'occasione, al di là di tutte le possibili strumentalizzazioni della questione, per dire che comunque è quanto mai necessario, evidentemente a Bologna e ovunque, costruire spazi politici per LGBT, o in generale spazi sostenibili nei quali riusciamo ad autogestire le questioni, appunto, della cosiddetta sicurezza o della possibilità di muoversi liberamente, no? Quindi a maggior ragione Atlantide risulta, secondo me, un esperimento su Bologna abbastanza unico, perché proprio penso che la spoliticizzazione del contesto LGBT poi porti a una totale delega alle forze di sicurezza, poi, o al minimo alle security, oppure alle forze di sicurezza, per gestire i nostri spazi. Quindi questo mi sembra un appello che mi sento di fare. Sì, anche ovviamente, perché è un problema, insomma, che sentiamo da anni, come dire, appunto, che si chiami la polizia o che ci sia la security, il problema di fondo resta la cultura per cui deleghi la sicurezza altrove, insomma, altrove. E poi diventa un'altra sicurezza, insomma, non diventa quella che sia pubblica sicurezza o sicurezza security, esatto, in genere si diventa un'altra cosa. Noi, però. Va bene, quindi vabbè, magari poi ci aggiorneremo sulla questione Atlantide, visto che non ci sono, insomma, ulteriori sviluppi, almeno per il momento, speriamo. E, insomma, per entrare un po' nel vivo dei discorsi di questa trasmissione nello specifico, l'altra volta, insomma, ci eravamo un po' fermati prima che cadesse la linea, ripartendo da, insomma, i discorsi che abbiamo fatto durante la trasmissione delle ultime settimane. Quindi noi eravamo un po' partiti da un lavoro che abbiamo, insomma, un po' commentato con l'autore Christian, che si chiama appunto Lavori Affetti, che in qualche modo andava ad inquadrare, insomma, la questione LGBTQ con il mondo della produzione, e ci interessava, visto che, insomma, in qualche modo tu hai seguito il percorso di un sommovimento nazionale di alcuni campeggi effettuati durante l'arco dell'anno, che hanno avuto anche questa parte, insomma, questo argomento come uno dei punti focali sul quale vi siete avete dibattuto e vi siete incontrati, e vorremmo, insomma, che ci raccontassi un po' tu anche un minimo il percorso di queste campeggi, di questo sommovimento, e anche in particolare, insomma, il ragionamento che avete fatto riguardo appunto la tematica della produzione e i movimenti LGBTQ, in modo, insomma, da così dare un po' un contributo ulteriore a questo tipo di dibattito. Sì, sì. Guarda, direi che, insomma, in parte avete, insomma, inquadrato già la questione, però il nodo, diciamo, dei nessi in cui ci stiamo muovendo, appunto, tra lavoro, affetti e reddito, nel senso di esplicitare intanto il fatto che tutte le richieste che sono venute anche dall'ambito LGBT, che riguardano le richieste antidiscriminatorie, pari opportunità, eccetera, comunque molto spesso sono, diciamo, eludono l'analisi di qual è il ruolo, ad esempio, delle strutture familiari o dentro i rapporti di produzione, no? Ovviamente il ragionamento che stiamo facendo è sulle mutazioni del lavoro in generale, che ha sempre più componenti affettive, relazionali, linguistiche, e mette a valore, diciamo, la soggettività in quanto tale, e quindi anche la soggettività queer. E quindi questo tipo di analisi ci porta anche ad andare oltre la posizione, diciamo, antidiscriminatoria ed egualitaria, nel senso che noi dobbiamo semplicemente riuscire a cogliere quali sono gli specifici aspetti delle nostre soggettività che entrano in produzione. E anche parlando di lavoro, ovviamente parliamo di lavoro salariato, di lavoro riproduttivo, di lavoro di cura, di tutta una serie di, diciamo, di lavoro e non lavoro, cioè parliamo di vita al lavoro, nella misura in cui tutta una serie di esperienze relazionali, emotive, affettive sono comunque già di per sé produttrici di valore. In questo senso, ovviamente, ci siamo posti la questione di come rivendicare e rendere visibile il fatto che le nostre reti affettive, che per chi non ha, diciamo, non si racchiude in relazioni semplicemente relazioni monogamiche o parafamiliari, comunque noi parliamo di reti politiche affettive, cioè anche il nostro stesso attivismo costituisce reti che sono affettive e politiche, che sono multiple. Dentro a queste reti siamo posti la questione di come, di chi si prende cura di chi, di come si stanno diffondendo pratiche di neomutualismo, in una cornice ovviamente di precarietà, in una cornice di sempre maggiore esclusione sociale in qualche misura, no? E quindi pratiche di neomutualismo, pratiche di sostegno al reddito, pratiche di condivisione, di coabitazione, che sono, penso, un'esperienza molto forte in generale, molto diffusa a livello sociale e molto diffusa nelle reti queer. E con reti queer intendo reti tra persone gay, lesbiche, trans, o anche etero, ma che in qualche modo praticano l'intersezione fra le questioni di sessualità, genere, lavoro e reddito, quindi reti allargate in questo senso. Quindi non lo so, questo è un po' lo snodo, uno degli snodi di partenza, no? Per cui tutta un'area che poi era l'area antagonista del movimento LGBT, che poi era tutta la parte, diciamo, non integrazionista, secondo me ha bisogno e sta facendo in questo momento un passaggio in qualche modo di analisi, per cui non è detto che la questione, che il piano di azione sia sempre e solo quello antidiscriminatorio e integrazionista, nel senso che in questo momento per noi il piano di azione è di prendere atto della precarietà delle vite queer e chiedere reddito e rinegoziare welfare, rinegoziare del reddito diretto e indiretto, aprire conflittualità in un contesto che, per il quale le lotte precarie diventano le lotte queer, cioè in una convergenza tra lotte queer e lotta precaria. Questo mi sembra un po' la direzione verso la quale stiamo andando. Ma in questa riflessione mi sembra che si articoli anche in un contesto proprio di partecipazione, dico, di attivismo, anche di appunto compagni molto giovani. Cioè, noi spesso ci confrontiamo con una retorica per cui noi quelli che stiamo parlando in questo momento saremmo l'ultima generazione presente. Questo è evidente che non è vero, e in particolare mi sembra che alle campeggi, insomma, la sua movimenta partecipi una generazione che nell'inasprimento delle politiche neoliberiste è anche una generazione che sperimenta una precarietà che è ancora più estrema, ancora più assoluta rispetto a quella vissuta da chi oggi ha tra i 30 e i 40 e anche qualcosa di più. E quindi, insomma, mi chiedevo questa cosa come entra anche come confronto, insomma, tra persone che hanno vissuto esperienze diverse, e poi la concezione che viene fuori, insomma, l'idea, il ragionamento che viene fuori dal suo movimento su un nuovo welfare che è basato sulle affettività che prima tu delineavi. Mi chiedo appunto se questo ragionamento è a prescindere dallo stato sociale sgretolato, cioè uno stato sociale che si dà già per scoppiato completamente, quello istituzionale, dico. Allora, sull'elemento generazionale direi sì, sicuramente emerge con più centralità nelle nuove generazioni, e tuttavia mi sembra, cioè, noi abbiamo avuto vari momenti di costruzione, nel senso che questo è un processo di autoinchiesta in questo momento, no? Che è proceduto prima con questi momenti sull'immersion assembleari e poi anche con strumenti più micro, di autoinchiesta di microgruppi, eccetera, anche per individuare una modalità, no? Di autoinchiestarsi e inchiestare all'esterno per far emergere poi le questioni. Quello che è il dato è sì, che è vero, sicuramente è stata usata la leva generazionale, no? Per contrapporre il lavoro precario non garantito al lavoro garantito, e tuttavia adesso siamo in una fase in cui possiamo pensare che la precarizzazione ha subito una forma di generalizzazione, per cui anche le forme di lavoro a tempo indeterminato in realtà subiscono nella loro organizzazione del lavoro, nelle retoriche, nelle forme di controllo e di disciplinamento del lavoro, nelle forme di competitività interna, di orientamento all'obiettivo, eccetera, subiscono comunque una modalità di tipo precario, no? E quindi che può essere, ok, non ti posso licenziare, ma posso cambiare le tue mansioni continuamente, posso spostarti altrove, posso costringerti a ripensare continuamente il tuo lavoro, posso continuamente valutare che è insufficiente, che deve, quindi in ogni caso anche un'erosione del reddito continuo anche rispetto a chi un reddito fisso ce l'ha. L'erosione del reddito e l'erosione, diciamo, di quelli che possono essere i diritti acquisiti e i livelli di salariali acquisiti, no? Quindi sostanzialmente è come se improvvisamente tutto dovesse essere continuamente, giorno per giorno, riconquistato anche nei carrozzoni più burocratici statali possibili, o in situazioni in cui tradizionalmente ci può essere una situazione di, anche per lotte pregresse, di di grosso avanzamento operaio, insomma comunque di salariati, questo sicuramente. Sulla questione welfare no, le questioni sono due. Un aspetto è che come nelle nostre reti facciamo un'analisi di come si ridistribuisce il lavoro di cura e il mutuo aiuto, e ovviamente non è che pensiamo che il mutuo aiuto può sostituire o debba sostituire lo stato sociale o i diritti in generale di sistema sanitario nazionale o quant'altro. Tuttavia abbiamo nell'erosione del welfare, nell'erosione di sovranità, bisogna pensare intanto a come tenere, in ogni caso, nel senso che persone perdono il lavoro, persone perdono la casa, quindi comunque c'è un'esigenza immediata di solidarietà dentro a reti ovviamente che hanno una complicità in qualche modo politico-affettiva, no? E quindi elettive di affinità. Ovviamente tutto questo ci serve per rafforzare dei conflitti che devono essere universali, cioè che devono essere per riconquistare, ripensare, difendere e risignificare il welfare esistente o quello che verrà. Insomma, in qualche modo un lavoro, ad esempio, che stiamo facendo in questo momento riguarda consultori in generale, consultori per i GV, il giorno dopo, sia i consultori trans, consultori di informazione per le MTS, eccetera. Per cui è vero, cioè dobbiamo cercare di difendere queste situazioni che sono molto avanzate in qualche modo, ma che vengono però continuamente erose e comunque non rispondono ancora abbastanza ai bisogni. Cioè agire in questo contesto significa comunque auto-organizzarsi, riappropriarsi di saperi, rompere anche un rapporto dentro all'ambito sociosanitario, che è quello dello servizio, dello sportello e di forte separazione tra erogatore del servizio o tra potere medico e utente, ad esempio, e lì lavorare su processi di ricostituzione di saperi e di pratiche dentro e fuori il welfare pubblico, in questo senso. Senti, prima tanto un po' per riportare la questione su cose effettivamente che state provando a portare avanti, come l'autoinchiesta a cui facevi riferimento prima, eccetera eccetera. Abbiamo un po' inaugurato questa serie di trasmissioni parlando proprio del soggetto LGBTQ come soggetto precario quasi per antonomasia. C'è proprio un incipit, no, dello scritto di Christian, che penso tu conosci, che parla appunto dello small town boy, no, di quello che è sempre stato, insomma, il soggetto LGBTQ come molto similare, insomma, a chi, essendo sradicato, perché poi molto spesso anche non aveva più una famiglia alle spalle, doveva magari andare via da casa per provare, insomma, a vivere la propria vita, la sua vita, era un po' il prototipo, insomma, del lavoratore così spogliato da qualsiasi riferimento anche materiale. Dalle vostre modalità di autoinchiesta, come è cambiato, o meglio, come emerge in maniera differente il lavoratore LGBTQ all'interno, insomma, di un processo così del capitalismo odierno? Ovviamente emergono tutta una serie di situazioni molto ambivalenti, nel senso che da una parte sicuramente abbiamo avuto storicamente questo tipo di costruzione di figure sociali sganciate dalla famiglia, Fra l'altro, quindi, scusa Renato se ti interrompo un attimo, se no ci si allontana troppo, sì, dal riferimento, parlando di autoinchiesta non particolarmente strutturata, ma insomma, come sai, questa trasmissione per 3 anni ha raccontato delle storie di vita, anzi ha dato il microfono a delle storie di vita, e lì veniva fuori tantissimo questo modello dello small town boy, con la caratteristica specifica dell'andare dal piccolo centro al grande centro. Questa era proprio un classico. Proprio il classico abbiamo trovato in quasi tutte le storie di vita che abbiamo raccontato. Questo per chiudere, insomma, su anni 80-90. Ora ti lascio la parola. No, ma infatti voi siete veramente un punto di apertura, di indagine sociale molto interessante da questo punto di vista, no? Perché comunque anche quella è una forma, tra l'altro, pubblica, e quindi che produce una riflessione più ampia di autoinchiesta molto specifica, no? Sicuramente c'è questo, diciamo, paradigma, anche perché sappiamo benissimo che in Italia, insomma, per le poche indagini che sono state fatte, c'è una grossa migrazione interna verso pochissimi 5-6 città, grandi città o medie, dove esistono più o meno comunità LGBT o più o meno situazioni di vivibilità più sostenibili, no? E quindi c'è questa grande anche narrazione, diciamo, della migrazione interna, non so come dire, che mi assume in pieno, di cui faccio parte. Dall'altra dobbiamo fare i conti però con tutto l'altro aspetto, perché poi, insomma, che è quello, diciamo, del diversity management e di come invece tutte queste ricchezze, potenzialità espressive, creative o comunque sradicate, quindi flessibili e disponibili e concentrate in territori metropolitani, diventano anche una risorsa, di come anche con alcune strategie vengono anche riconosciute. Quindi noi abbiamo cercato di capire e di formulare tutta una serie di domande interne all'autoinchiesta su come tutta una serie di competenze queer vengono in qualche modo riconosciute in ambiti lavorativi. Cioè, penso come paradigma a Milano, dove probabilmente c'è la concentrazione più ampia, comunque una grande concentrazione di LGBT, dove c'è tutta questa parte di comunitariato creativo, della moda, della creatività, del design, eccetera, eccetera, e di come questa roba qui, tutto sommato, viene anche valorizzata sul lavoro, valorizzata in termini di non tanto economici, ma di riconoscimento, no? Dove il fatto di essere queer su quella roba lì diventa un plus valore, quindi in qualche modo diventa anche un riconoscimento della tua soggettività. Quindi in qualche modo c'è un gioco, il diversity management e la capacità del capitale di inglobare, mettere a valore, riconoscere per sussumerla ancora di più le soggettività, no? Anche questo è un meccanismo che va analizzato, e anche questo è un meccanismo che è ambivalente, nel senso che gran parte dei movimenti mainstream LGBT nel mondo elogiano le multinazionali che fanno politiche di diversity management, perché ovviamente si passa da una situazione di magari invisibilità sul lavoro o di ricattabilità, perché se scoprono che non si deve capire, non si deve sapere, non lo deve sapere nessuno, rispetto alla sessualità, si passa invece a un'ingiunzione e a un'interpellazione per cui si chiede di esplicitarla e di metterla dentro al contesto lavorativo, perché viene considerato una competenza aggiuntiva. E questo ovviamente va analizzato per quello che è, no? Un maggior riconoscimento, ma soprattutto anche un maggior sfruttamento della propria soggettività. Quindi secondo me l'elemento innovativo è questo, che si affianca all'altro, nel senso che tu puoi avere contemporaneamente esclusione, espulsione dai contesti tradizionali e iperinclusione differenziale nei contesti metropolitani, contemporaneamente nell'arco della tua stessa vita o nello stesso territorio. Sì, sicuramente contemporaneamente, perché poi, insomma, perché poi esiste anche tutto il livello, diciamo, intersezionale, per cui da una parte ci sono le competenze queer, però dall'altra magari sei una trans migrante, oppure ovvio, sei una donna, perché sei una lesbica e non risponde a determinati, come dire, canoni estetici, sostanzialmente dell'essere donna. Sì, o qualunque altra, come dire, qualunque altro aspetto vogliamo analizzare, insomma, classe, razza, genere, eccetera, insomma, o le altre 11 categorie che le studiose americane hanno elencato, e quindi ovviamente tutti questi livelli sono tutti contemporanei. Esatto, sicuramente, cioè, rispetto soprattutto direi all'esperienza trans, direi che siamo ancora molto molto indietro, nel senso che non abbiamo neanche fatto questo passaggio di possibile inclusione nel mondo del lavoro, quindi siamo ancora, e questo è un problema che in questo momento è molto forte, cioè molto molto sentito, nel senso che non ci sono alternative spesso o possibilità di autodeterminarsi rispetto al lavoro, no? Ma anche lì chiediamo lavoro, però chiediamo anche riconoscimento di quel tipo di esperienza. Cioè, voglio dire, non è che è in contraddizione, è chiaro che c'è un diritto a non essere discriminati per l'accesso al lavoro, ma soprattutto c'è un diritto ad avere un reddito senza lavoro per tutti e in modo indiscriminato. Ecco, questo vorrei dire. Sono due piani diversi, uno di pensione più ampia e l'altro che può essere un passaggio nell'immediato. Ma su un passaggio nell'immediato ho grandissimi e fortissimi dubbi, ma andrei un pezzetto ancora avanti, ovvero analizzavamo invece poc'anzi un qualche cosa che invece è fattibile probabilmente nelle nostre reti, insomma, in qualche modo lo accennavi tu prima, ovvero effettivamente delle possibilità, no, di andare a costituire delle dei paracaduti, delle reti di mutuo aiuto, che effettivamente all'interno, insomma, di un mondo all'interno del quale, insomma, la precarietà o comunque a volte anche l'espulsione diretta dal mondo del lavoro crea delle difficoltà gigantesche per la vita di tutte e tutti noi, ancor di più, insomma, all'interno delle soggettività LGBTQI. Però allo stesso tempo è un po' uno dei discorsi ricorrenti di queste ultime trasmissioni, proprio queste reti, insomma, di soggettività LGBTQI hanno invece dalla loro proprio la possibilità di tessere delle reti molto allargate, molto variegate, proprio dal punto di vista proprio delle proprie esperienze sociali e politiche, che in qualche modo invece possono diventare effettivamente e concretamente un non solo un paracadute, ma anche insomma, Christian si era anche un po' lanciato oltre delle forme, insomma, alternative al lavoro salariato. Io ho grandissimi dubbi su tutto questo, l'ho già espressi anche a Christian, volevo avere un po' la tua su questo tipo di dinamica. Sì, ormai ci confrontiamo da anni su questi punti, diciamo, quindi... Figurati, siamo qui anche per questo, certo. Certo. Non so, la questione non è neanche di decidere se si è d'accordo o meno, no? Nel senso, o su quali potenzialità ci siano o meno. Il problema è capire su quale piano si può fare una lotta anticapitalista o comunque di redistribuzione delle ricchezze prodotte socialmente, non so come dire. Quindi allora lì dobbiamo capirci su come vengono prodotte e come vengono non vengono redistribuite, e se la forma e il valore lavoro è ancora lo strumento, in parte lo è, in parte non lo è più, per misurare questa produzione e questa redistribuzione. Cioè, poi sul reddito, ma voglio dire anche direi che il nostro dibattito è in parte superato dalle cose, no? Nel senso che tutto il dibattito che c'è stato nel movimento tra redditisti e lavoristi, in qualche modo è superato dai fatti, nel senso che a questo punto alcune cose sono successe, non so come dire, quindi un certo grado di emancipazione del capitale dal lavoro, soprattutto nei nostri territori, è avvenuto, una certa dismissione del welfare con le politiche d'austerity è in corso, e quindi facciamo esplodere queste contraddizioni non al nostro interno ma al di fuori. Cioè, mi va bene, chiediamo lavoro, chiediamo reddito, chiediamo servizi, costruiamoci, cioè, pretendiamo in forme conflittuali comunque la nostra, diciamo, diritto all'esistenza riappropriazione della ricchezza che comunque partecipiamo a produrre, ecco, questo voglio dire. Quindi insomma siamo anche un po' oltre gli orizzonti del praticabile o meno. La cosa molto difficile secondo me è arrivare a delle forme di ricomposizione e delle forme anche di attivismo comune, e questo mette in gioco proprio le forme della politica, come si decide di agire, su quali piani, su quali livelli, e questo mi sembra che negli ultimi anni sia stato l'ostacolo principale alcune forme residuali di militanza, nuove forme di militanza che stanno emergendo, come si ricomporranno. Questo mi sembra un po' adesso la questione, che tipo di ricomposizione tra le varie soggettività. Senti, tornando invece sulla questione del mutuo aiuto, insomma, e della costruzione di reti, credo che si tratti anche, cioè, guarda, voglio usare un'espressione della teoria della differenza, che è forse quello che reputo più lontano da me, diciamo, tra le varie analisi femministe. Cioè, si tratta anche di dare valore alle reti che abbiamo già vissuto, che abbiamo già costruito, ma che non abbiamo riconosciuto come luoghi politici, in fin dei conti. Che partono da una parte, come dire, molto nel personale, in un personale che è politico e che è quello della costruzione fuori dall'obbligo all'eterosessualità, sostanzialmente, ma dall'altra, appunto, mi è capitato più volte in questi giorni di ripensare all'esperienza dei consultori gay rispetto all'AIDS, per esempio, un'esperienza che non mi riguarda neanche personalmente, ma voglio dire, hanno svolto un ruolo enorme in questo paese, hanno fatto passare il messaggio, no, che una malattia che era mortale come l'AIDS era determinata dai comportamenti, non dalle categorie. Questo credo abbia salvato la vita a tante persone, insomma, per cui sono anche reti che hanno avuto un valore e a cui forse non ne abbiamo dato abbastanza. Sì, sono completamente d'accordo. Questo, cioè, da una parte aggiunge, no? Anzi, arriva proprio al centro di quello che stavamo cercando di dire prima sulla ricomposizione tra militanza e vita, no? Cioè, che forme della militanza in qualche modo sganciate dal quotidiano, dalla vita, e quindi forme sganciate anche dall'affettività, non so come dire, diventano quasi impraticabili o comunque deboli, insostenibili. E dall'altra, sì, cioè il richiamo a delle nostre genealogie che sono forse le più vicine, e probabilmente questo riguarda un po' il contesto italiano, dove tutta questa reazione all'HIV-AIDS, questa capacità di risposta, eccetera, è stata molto sottotraccia e solo in parte ha trasformato le forme dell'attivismo LGBT, laddove in altri contesti, non è un caso che noi dobbiamo fare riferimento ad ACT UP New York, eccetera, che forse più platealmente è stata la dimostrazione di come davanti a quel tipo di situazione drammatica in cui le persone morivano nell'isolamento, poi la stigmatizzazione totale di tutta la pratica dell'identità omosessuale, c'è stata da una parte un'attivazione, e i rapporti tra gay e lesbica a quel punto sono diventati, appunto, si sono ricreati sulle basi affettive e di sostegno, e poi ovviamente queste reti di auto-organizzazione che sono state farsi carico delle condizioni materiali sono diventate anche reti di conflitto, e qui sono diventate reti di riappropriazione di sapere medico, di conflitto contro le multinazionali, di conflitto contro il sistema sanitario nazionale, perché o non faceva la sperimentazione o la faceva in modo discriminatorio o non rilasciava farmaci che erano già disponibili, o giocava in qualche modo con le vite delle persone, quindi andava continuamente con azioni plateali, con azioni fortissime, il versamento delle ceneri dei morti dentro il prato della Casa Bianca, cioè i funerali pubblici, cioè la rivendicazione pubblica di quella che era considerata invece uno stigma individuale da tenere nascosto, una vergogna, no? Quindi un lavoro di soggettivazione enorme che parte da un settore completamente di stigmatizzazione e di desoggettivazione totale che cadeva appunto a rompere le lotte LGBT negli anni 70 e primi anni 80, no? Questo mi sembra un esempio abbastanza importante, no? Da tenere presente nella nostra genealogia. Ok, io in questo punto di carte al fuoco penso l'abbiamo messa veramente tanta. Ti chiederei così per concludere, visto che insomma sono le 19:20, un po' come, insomma, anche alla luce dei discorsi che abbiamo fatto finora e anche dell'esperienza appunto del suo movimento nazionale, quali sono appunto i prossimi passaggi che avete in programma, insomma come proseguirà questo tentativo così di approccio a tutte queste dinamiche di cui abbiamo parlato. Allora, diciamo innanzitutto che è un processo in divenire continuamente, che ha bisogno di essere alimentato, e che quindi si possono consultare tutta una serie di materiali, di report, le tracce di autoinchiesta, tutto quello che si è fatto fino adesso sul blog del suo movimento nazionale. Ci sono tutta una serie di materiali, diciamo, che via via vengono prodotti, che non sono in qualche modo né esclusivi né perfetti, cioè sono appunto il frutto del work in progress, che sicuramente si sta creando una rete e che sta emergendo, si è vista nelle piazze poi in alcune situazioni, che non c'è il desiderio di farne un soggetto monolitico o il nuovo soggettone nazionale, eccetera, perché ci muoviamo in un altro tipo di prospettiva, e il messaggio che mi sento di dare è comunque di stare connesse e creare situazioni di moltiplicazione di questo dibattito. Noi cercheremo, ad esempio, per i prossimi mesi, e probabilmente dovremo riuscire a costruire un appuntamento anche romano, di ricostruire questi laboratori, microgruppi di autoinchiesta in contesti mirati a Milano, a Roma, a Padova, in altri contesti, cercando proprio di includere i nostri ambiti, no? Le nostre, al di là di chi già sta nel processo. C'è una mailing list, insomma, ci saranno appuntamenti che via via usciranno, e poi quello che succederà, diciamo, dipenderà solo da noi collettivamente. Renato, e credo che adesso possiamo salutarci, insomma, anche perché insomma ti abbiamo fatto parlare proprio tanto, insomma, mi rendo conto che io mi sa che è stato, che insomma mi sembra che siamo stati anche faticosi nei tuoi confronti. La cosa è tapparmi la bocca, no? Non ti preoccupare, non succederà mai. E niente, noi ovviamente ti chiediamo se ti va di continuare a seguire anche questo nostro percorso radiofonico, perché insomma, come dire, cerchiamo di costruirlo insieme questa riflessione, perché non è già data, ecco. Esatto. No, ma infatti voi siete un interlocutore importantissimo, e lo siete stato e lo siete in tutti questi anni. Grazie. Troppo buona. Va bene, dai, andiamo oltre, salutiamoci per adesso, se no insomma iniziamo così a sbrodolarci. Ci si risente sicuramente quanto prima, e intanto grazie per questa, insomma, chiacchierata. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bacione. E allora 19:23, io continuo ad avere tantissimi e grandissimi dubbi su tante delle questioni affrontate, poi magari ne parliamo meglio la prossima settimana, soprattutto sul tutto questo lato di tentativo così A di ricomposizione, B di come dire, utilizzare le reti politiche non per costituire altro, insomma, da quanto conosciamo, dallo stato di cose presenti. Io ho una grande paura quando si affrontano queste tematiche, perché sotto questo punto di vista sono abbastanza sicuro che, insomma, ciò che il capitalismo crea e che mette a valore è quasi impossibile che farlo cambiare disegno e farlo diventare un qualche cosa che, anziché dare valore appunto all'esistente, diventa un'arma. Però insomma, tutti questi dubbi magari possiamo provare così a tirarli fuori nella prossima puntata di Profondo Rosa. Adesso insomma capiamo, ci saranno sicuramente altri ed altri interlocutori e interlocutrici. Insomma, è così, come si diceva, un po' un work in progress, un tentativo, insomma, di analisi dai microfoni della radio. Infatti così rinnovo anche la possibilità di entrare in diretta e quindi criticare, dir la vostra, insomma, durante queste trasmissioni. Non c'è assolutamente nessun problema, anzi ci fa assolutamente piacere e contribuisce sicuramente a un tentativo di dipanare tutte queste questioni. E insomma, che dire, diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre dagli 87.9 di Onda Rossa. Salutiamo anche quella che doveva, insomma, che era la nostra ospite fissa, ma stasera c'è stata un paio di settimane, stasera non c'è, ma magari giovedì tornerà. Ok, perfetto. Ancora un saluto a tutti e a tutti, restate all'ascolto sempre sugli 87.9 di Onda Rossa. Anche stasera purtroppo il GR delle 19.30 non andrà in onda, quindi penso che vi lasceremo con un po' di musica, un po' di spot delle prossime iniziative. Vi ricordo in particolare quella di sabato al Forte Prenestino, con una serata a sostegno delle arrestate, degli arrestati, per quanto riguarda appunto la lotta a Notav, una serata che vedrà all'attivo ben quattro gruppi della scena hardcore italiana: Placcaggio Hardcore, Nice, Obofobic e Kate Mosh. Entrata a sottoscrizione CSA Forte Prenestino. Fra l'altro c'è anche una compilation, insomma, che si può acquistare, fra l'altro edita anche su vinile, e insomma l'occasione non è da poco, anche per appunto sostenere i compagni e le compagne Notav. Ancora un saluto a tutti e a tutti, e insomma ci si risente quanto prima. Ciao. Ciao.